Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Un buon sabato a tutti voi cari ascoltatori, da Gigi Donelli, da Andrea Roccobella in regia e naturalmente da tutta la redazione di Radio 24. Europa Europa dunque, abbiamo l'ora oltre al giorno, al mese, insomma la Gran Bretagna sembra proprio che uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. È stata perentoria questa volta la premier conservatrice Theresa May, che ha messo nero su bianco giorno e ora appunto della Brexit, con un emendamento alla Whitehall Bill, quindi la legge quadro sul divorzio dall'Unione Europea. Insomma, in attesa che molti dei capitoli aperti vengano addirittura affrontati, neanche chiusi, è stato fissato il punto di arrivo. Ma sentiamo Leonardo Maisano da Londra. Chi non lo avesse capito è meglio che prenda nota. Brexit avverrà non un giorno qualsiasi, ma un giorno preciso, il 29 marzo del 2019. La signora Premier britannica Theresa May ha fatto scolpire la data sulla prima pagina della legge che percorre l'iter parlamentare e sancirà l'uscita di Londra dall'Unione Europea. Una data nota, essendo stata avviata il 29 marzo del 2017, il percorso di uscita dall'Unione Europea previsto dall'articolo 50, che appunto regola la separazione dall'UE dei partner. Eppure la mossa di Theresa May ha un significato preciso: ribadire la volontà di divorzio da Bruxelles, nonostante gli spifferi che indicano una crescente volontà britannica di fare marcia indietro. Il quadro politico di Londra resta quanto mai confuso e Theresa May è esposta a un possibile golpe interno del partito conservatore per rovesciarla, scenario che secondo i sondaggi aprirebbe le porte a nuove elezioni e alla vittoria del radicale laburista Jeremy Corbyn. È in questo contesto che il negoziatore dell'Unione Europea Barnier ha dato i 15 giorni a David Davis, la controparte britannica, al tavolo delle trattative. Entro 2 settimane Londra dovrà dire quanto è pronta a pagare per lasciare l'UE se vuole sperare di poter passare alla seconda fase del negoziato, quella che più le preme perché traccerà le future relazioni economiche euro-britanniche. Grazie dunque a Leonardo Maisano. Allora staremo a vedere se gli inglesi saranno, se i britannici, saranno puntuali su questo punto. Naturalmente molte trattative in vista e quello sarà davvero la questione più delicata. Ancora notizie: i produttori auto dell'Unione Europea dovranno obbligatoriamente entro il 2030 avere il 30% della loro flotta a zero o bassa emissione. Questa è la richiesta al centro del pacchetto mobilità pulita presentato dalla Commissione. Ci sarà anche un target intermedio nel 2025 appunto per garantire l'obiettivo. È previsto anche un sistema innovativo di incentivi per chi supera la sua quota di autoveicoli, anzi puliti, auto e van in generale, e un sistema di sanzioni per i produttori pari a 95 euro per grammo di emissioni superiore al limite per ogni veicolo. E adesso parliamo di paradisi fiscali. Anche lo Stato del Belgio è coinvolto nel nuovo scandalo finanziario venuto alla luce grazie ai Paradise Papers. Il governo dal 1999, il governo del Belgio, ha investito in una società offshore con sede alle Isole Vergini Britanniche che figura nella lista nera appunto dei paradisi fiscali del Belgio. Secondo il quotidiano Le Soir, che ha dato ovviamente ampio risalto alla questione, tutto nasce negli anni 90 da un progetto di una società americana che voleva investire in un progetto di un porto in Vietnam, da una società americana che appunto viene acquisita da fondi del Belgio. Ma allora sui paradisi fiscali sentiamo Sergio Nava. I Paradise Papers tornano a movimentare le acque della politica europea nella settimana di Eurogruppo ed Ecofin. La Commissione è tornata a chiedere ai Paesi membri un'intesa relativa a una blacklist comunitaria sui paradisi fiscali. Il faut pas confondre la compétition fiscale, qui est légitime, e le fait d'appartenir a un paradis fiscal, c'est de ne pas obéir. Il commissario all'economia Moscovici ha chiesto una lista credibile. Le ultime rivelazioni dimostrano che alcune aziende e individui sono pronti a tutto pur di evadere le tasse, ha detto Moscovici, che esige passi avanti. Il problema è che seppur nessun paese comunitario figura all'interno della lista nera in preparazione, sono diverse le giurisdizioni coinvolte. Solo per fare un esempio, le Bermuda e le Cayman sono territori britannici d'oltremare. Anche per questo Londra, pur in uscita dall'Unione, è notoriamente restia a stilare la blacklist. Sul tema ha preso posizione il ministro dell'economia Padoan. L'Italia, come altri paesi, sta traendo vantaggio dal nuovo clima internazionale che si è creato contro l'elusione e l'evasione dopo le denunce del giornalismo investigativo, ha detto. Non esiste più la possibilità di non trasmettere informazioni, c'è anzi massima cooperazione sullo scambio di dati. Il ministro dell'economia ha però riconosciuto che alcuni governi sono tolleranti nei confronti di una gestione un poco allegra delle questioni fiscali e ha precisato è una questione che ha a che vedere con quei paesi su cui la pressione internazionale può fare molto. La nazione probabilmente più in imbarazzo nell'Unione Europea è Malta, isola nel bel mezzo del Mediterraneo, la cui credibilità è già stata pesantemente minata dall'uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia, autrice di inchieste scottanti sui flussi finanziari sospetti passati dalla Valletta. Il ministro maltese delle finanze, Edward Scicluna, ha dovuto difendere a Bruxelles la reputazione dell'isola. Non abbiamo nulla da nascondere, tutti i nomi legati ai Paradise Papers erano elencati in un registro pubblico, ha detto. Secondo Scicluna, molte delle leggi antievasione devono ancora venire completamente implementate. Il momento della verità europeo sarà comunque a dicembre, quando si dovrebbe finalmente procedere con la blacklist. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non è uno stage e nemmeno un apprendistato, ma la possibilità di un'esperienza sul campo al fianco di un collega più esperto di un altro paese dell'Unione, spesso alla ricerca di una finestra su un altro mercato. Stiamo parlando dell'Erasmus per i giovani imprenditori, il programma finanziato dalla Commissione che favorisce lo scambio di competenze e strategie. Ci racconta tutto Chiara Bussi. Un'esperienza da 1 a 6 mesi sul campo, ospite di un collega più esperto di un altro paese con cui si instaura un rapporto alla pari. Uno scambio di competenze professionali e linguistiche per mettersi in gioco in tempi ancora difficili nei settori più disparati, dalla pubblicità all'ingegneria fino alla consulenza legale e al turismo. Stiamo parlando dell'Erasmus per giovani imprenditori. Il programma, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Associazione europea delle Camere di Commercio, è decollato nel 2009 e finora sono oltre 9.000 le candidature accettate. Tra loro 2.000 italiani, che rappresentano la quota più significativa, subito dopo gli spagnoli. Le opportunità dunque ci sono. A fornire le istruzioni per l'uso è Anna Sarateanu, project manager del Centro Studi Cultura e Sviluppo di Pistoia, uno dei 19 punti di contatto in Italia. Quali sono i requisiti per partecipare al programma? Per i giovani imprenditori bisogna avere in progetto l'avvio di una nuova attività imprenditoriale o averla avviata da meno di 3 anni, quindi bisogna avere un'esperienza imprenditoriale inferiore a 3 anni. Tant'è vero che parlando di giovani imprenditori non si intende giovane in termini di età anagrafica, ma di una giovane idea imprenditoriale, quindi l'avvio di una nuova attività. Che tipo di documenti bisogna presentare? Basta il curriculum in formato europeo, in inglese, e il piano di avvio attività in cui viene spiegato che cosa si intende fare, in che settore, con quali fondi, eccetera. Bisogna preparare anche un piano finanziario per i primi 3, meglio se 5 anni successivi all'avvio attività, quindi spiegare entrate ed uscite e fare poi la registrazione sul sito del programma che è www.erasmus-entrepreneurs.eu, che è il sito ufficiale del programma Erasmus for Young Entrepreneurs. La meta può essere scelta liberamente o viene assegnata? La meta può essere scelta liberamente tra i paesi partecipanti, ovvero i 28 paesi membri dell'Unione Europea, insieme ad alcuni paesi che sono associati al programma e quindi partecipano a questo programma, che sono l'Albania, l'Armenia, la Bosnia Erzegovina, la Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Repubblica Moldova, Serbia, l'Ucraina e la Turchia. A quanto ammontano i finanziamenti per i giovani imprenditori? Per ogni destinazione, per ogni paese di destinazione c'è un importo mensile che viene dato dalla Commissione europea ed erogato da noi per aiutare i giovani imprenditori a sostenere le spese necessarie mentre si trova all'estero, alloggio, trasporto, eccetera. Si tratta di un importo che copre buona parte delle spese, anche se non tutte. tutto. Per dare un'idea, andiamo da circa 530 euro per l'Albania fino ad un massimo di 1100 euro per la Danimarca. Quale eredità lascia la partecipazione al programma? Intanto l'incontro e lo scambio, la possibilità di acquisire nuove competenze, la possibilità di migliorare le proprie chance nella fase di avvio attività, la possibilità di evitare errori all'inizio, di conoscere altri imprenditori magari in settori attigui e quindi fare rete per crescere insieme, così come la possibilità di cooperare poi anche dopo lo scambio con il proprio imprenditore ospitante. Tant'è vero che alcuni giovani imprenditori ci hanno detto di aver addirittura ottenuto finanziamenti dall'imprenditore ospitante che credeva nella loro idea, e altri invece ci hanno detto che sono rimasti in contatto collaborando poi su progetti specifici, aumentando il fatturato di entrambi. Insomma, il messaggio è che insieme si cresce e si genera crescita. Grazie a Anna Sarateanu, Project Manager del Centro Studi Cultura e Sviluppo di Pistoia. E grazie anche a Chiara Bussi. Adesso naturalmente le informazioni perché in viaggio, poi torniamo per la seconda parte di Europa Europa. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Europa Europa. Ben ritrovati, parliamo di lavoro, anzi di disoccupazione, riconversione dei posti di lavoro. Sul fronte europeo c'è il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Al di là del nome, così appunto enfatico per certi versi, ci sono poi delle applicazioni invece che ci interessano. Allora, Silvia Bernardi ci racconta quello che accade nel triennio di fatto a Trento allo stabilimento della Whirlpool, chiuso nel 2014, poi appunto un percorso di ricostruzione anche professionale. Allora, riguarda naturalmente il fondo, che ha una dotazione peraltro di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 e che può finanziare fino al 60% del costo di progetti destinati a aiutare appunto i lavoratori in esubero. Sentiamo tutto da Silvia Bernardi. In seguito alla chiusura dello stabilimento Whirlpool avvenuta nel 2014, abbiamo avuto modo di utilizzare il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione per far fronte al licenziamento di 608 persone. Grazie all'intervento che abbiamo realizzato con il finanziamento del FEG, siamo riusciti a conseguire tre obiettivi che ci proponevamo fin dall'inizio. Il primo, quello di riqualificare i lavoratori espulsi. Il secondo, quello di ricollocarli in contesti produttivi anche diversi. E da ultimo quello di sostenere lo sviluppo e il potenziamento di un'impresa importante per il manifatturiero trentino, l'impresa Vetri Speciali. Luciano Galetti è il direttore dell'Ufficio Risorse dell'Unione Europea della provincia di Trento e quello di cui parla, il licenziamento di 600 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Trento, è un caso importante per il numero di persone che hanno perso il lavoro. È simile ad altre realtà produttive che, anche se non sono arrivate alla chiusura, hanno comunque dovuto ridurre il numero dei dipendenti a causa dei mutamenti strutturali del commercio mondiale. In casi come questi, cosa fa l'Europa? Mette a disposizione il Fondo Europeo di Adeguamento alla globalizzazione. In Italia in 10 anni sono arrivati 118 milioni di euro, che sono serviti a finanziare fino al 60% progetti di riorientamento professionale e per aiutare più di 14.000 lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o ad avviare una propria attività, come ci racconta Cristina Ossander-Lott. Ho lavorato in Whirlpool per 17 anni fino a novembre 2014. Assemblavo frigoriferi e congelatori in catena di montaggio su parecchie linee di produzione. Il FEG mi ha permesso di seguire un percorso di formazione personalizzato, adatto ai miei bisogni e alle mie capacità. Ho partecipato alla formazione specialistica presso l'azienda Vetri Speciali. Nel mio caso, nel reparto controllo qualità. La formazione è durata all'incirca un mese e mezzo. Adesso gestisco 20 persone. Il FEG non mi ha dato solo l'opportunità di trovare un nuovo posto di lavoro, mi ha aiutato a credere in me stessa e di rendermi più sicura per presentarmi a un nuovo datore di lavoro. E adesso dal Trentino ci spostiamo invece in Sardegna. Parliamo di riconversione del petrolchimico di Porto Torres in bioraffineria operata, un progetto operato da Novamont, un caso studio per l'UE che partecipa al finanziamento del progetto attraverso First to Run, dove Novamont è capofila e lavora con l'Università di Bologna e altre quattro imprese specializzate. Il finanziamento non riguarda l'edificio raffineria, specifica la coordinatrice del progetto Cecilia Giardi, ma la sostenibilità della catena produttiva di biolubrificanti, cosmetici e bioplastiche. Allora, l'intervista è stata realizzata da Laura Bettini. Cioè, la bioraffineria è intesa però come intera catena del valore, perché altrimenti non ha poi senso in sé. Infatti noi ormai siamo oltre la metà del progetto. I primi 2 anni, perché il progetto dura 4 anni, i primi 2 anni sono stati proprio dedicati alla prima parte della catena del valore, quindi le produzioni primarie, consolidare questa parte e andare a validare su una scala di un certo livello, quindi appunto pre-industriale, tutta la parte dei processi. Il passo successivo sarà prendere questi output da questi processi e andarli poi a validare in quelli che sono questi prodotti, e più parallelamente c'è poi tutta la raccolta dei dati sia sui prodotti che sui processi, che servono proprio a validare la sostenibilità di questa value chain. Per quello che riguarda l'aspetto di accedere a questo finanziamento, come avete trovato tutto questo procedimento? Il bando di riferimento segue quelle che sono poi le regole dell'Horizon 2020, però la scrittura, l'investimento che uno fa nella scrittura è alto, così come è alto poi anche l'investimento che uno fa in termini di proprio impegno nella gestione. Dall'altra parte c'è da dire che però a livello europeo è tutto molto standardizzato, quindi hanno delle procedure standard e si seguono queste procedure, per cui è tutto ben chiaro. Grazie anche a Laura Bettini. Adesso parliamo di circular economy, economia circolare. Con l'adozione del, appunto, Circular Economy Package del 2015, l'Unione Europea ha stanziato importanti finanziamenti mettendoli a disposizione dei territori europei. Sono 1.150 milioni di euro gestiti direttamente appunto dalla Commissione, in gran parte dei quali attraverso Horizon 2020, ma anche in importanti partnership pubblico-private, cosiddetti PPPS, altri 5 miliardi altri di fondi strutturali a disposizione delle regioni. Ci sono naturalmente importanti possibilità per la crescita imprenditoriale, per i posti di lavoro. E allora su questo, e in particolare sul ruolo che le biotech industriali possono svolgere, è stato sentito il professor Fabio Fava, che è appunto docente di biotecnologie industriali ed ambientali all'Università di Bologna. Sentiamolo. Oggi quanto conta l'economia circolare, ma soprattutto quanto ancora può dare nei prossimi anni? Dunque, conta molto, nel senso che la si sta implementando, ogni paese sta facendo il meglio, la Commissione europea sta spingendo molto su questo, il Parlamento è molto attento, mettendo investimenti importanti, ricerca e innovazione. Tenga conto che la Commissione europea, nell'ambito dell'Horizon 2020, che è il più grosso piano di sostegno a ricerca e innovazione che ha messo in campo l'Europa, ha indirizzato quasi 1 miliardo di euro dal 2015 ad oggi fino al 2020, per i 5 anni, oltre 1 miliardo di euro di ricerca e innovazione. In più ha indirizzato i finanziamenti cosiddetti strutturali in maniera importante, 5 miliardi di euro andranno a sostegno dell'economia circolare. Quindi ha fatto molto perché potesse partire, sta partendo, sta producendo anche in Italia risultati molto interessanti, però siamo all'inizio e c'è molto dinamismo interessante e promettente. Serve anche una legislatura, normative che affiancano e che possano facilitare questo percorso. E questo era dunque Fabio Fava, docente di biotecnologie industriali ed ambientali all'Università di Bologna, al microfono di Adriano Palazzolo. Bene, direi che per oggi è tutto per il nostro appuntamento. Vi ricordo soltanto europa@radio24.it, dunque la nostra mail per qualsiasi richiesta di approfondimento, di informazione. Trovate tutto naturalmente su www.radio24.it. Allora, da Andrea Roccabella in regia, da Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'augurio di un ottimo fine settimana. L'appuntamento sabato prossimo intorno, come sempre, alle 12.30. Buon fine settimana ancora. Ti piacerebbe entrare nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspetta domenica 19 novembre al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it.